24 mattino. Sono una dipendente, lavoro in un nido pubblico, è vero, ci sono le linee di indirizzo della Regione Veneto, sono impraticabili per le fasce più piccole e la sfido a dare i dati su quanti nidi pubblici o perlomeno di una certa consistenza che stanno aprendo seguendo le linee guida date dalla Regione Veneto. Siamo l'unico paese al mondo il cui governo in ogni emergenza deve sempre nominare una task force o un commissario straordinario. Poi quest'ultimo si occupa di mascherine. E io mi chiedo perché ciò in altri governi non avviene. Qua fanno gli stati generali, ma qua siamo sempre in uno stato d'allerta. Faccio cassa integrazione ormai da 3 mesi, lavorando una settimana sì, una settimana no. Ieri mi è arrivata la cassa integrazione di aprile, ma solo la prima tranche di 10 giorni. Gli esami per la terza media ci sono, come la donna San deve informarsi, ci sono, vivo anch'io in Veneto, mio figlio lo farà dal 16 di questo mese e ci sono. Sull'ultimo punto, non è che si diceva che non ci sono gli esami di terza media, ci sono, però sono in distanza, perdono tutta la parte del rito di passaggio, se così vogliamo chiamarlo. Certo, questo riguarda soprattutto la maturità, lo studiare insieme, ritrovarsi là, l'andare a vedere i quadri, per chi se lo ricorda. E per chi ancora lo deve vivere, insomma. Ragazzi, in bocca al lupo. Sulla questione degli asili nido, ancora il tema dell'ospite che abbiamo avuto poco fa, l'assessore all'istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan. Io immagino, non è una difesa della Donazzan, per carità, poi potremo tornare a parlarci anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per fare un punto su come sono andate le cose. Io penso che queste regole stringenti siano dovute al fatto che non vuoi avere rotture di scatole da Roma, cioè tu devi regolamentare in un certo modo. Se vuoi riaprire i nidi devi regolamentare in un certo modo e probabilmente, evidentemente, per i bambini più piccoli questa regolamentazione è impossibile da gestire. Però così è. Intanto però registriamo il fatto che in Veneto si prova a ripartire su questo fronte, sul fronte degli asili nido e sul fronte, come ci diceva Donazzan, degli istituti di formazione professionale, quindi quelli che dipendono dalla regione. Vabbè, poi le task force, i commissari, sì. Sì, ce n'è sempre uno. E poi regolarmente questi rapporti rischiano di finire nel cassetto. Qualche ascoltatore, anzi un membro della nostra task force, della task force di 24 mattino, ci ha scritto l'altro giorno e diceva: sapete che fine farà il rapporto di Colao? La stessa fine del rapporto Cottarelli sulla revisione della spesa. Là, in un cassetto nascosto del ministero, stai là. Bene, hai redatto il rapporto? Ah, interessante! Ne parliamo 2 giorni sui quotidiani e poi. Ciao! Chissà. Eh sì, poi la questione della cassa integrazione, insomma, ne abbiamo parlato ieri, torneremo a parlarne tra poco, perché tra i temi di questa giornata ci sono sicuramente le parole del presidente dell'INPS Pasquale Tridico ieri in questa intervista al quotidiano La Repubblica, della quale in rassegna stampa ieri vi ho accennato. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, oppure se volete scrivere, mandare degli SMS. E poi siamo in diretta, come sempre, su Facebook, ci trovate su Instagram, su Twitter, dappertutto. Questa è la seconda parte di 24 mattino, sono le 7:23 minuti, è martedì 9 giugno ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. Piano Colao, che domina un po' tutte le pagine, quasi tutte le pagine dei quotidiani. Colao, il mio piano contro la paralisi, è il titolo della stampa, c'è un colloquio di Massimo Giannini, del direttore, con lo stesso Colao. Un piano senza soldi è il titolo del giornale, Libro dei sogni per ripartire. Il piano di Colao, meno tasse per tutti, è il titolo del quotidiano nazionale. Il Messaggero, Imprese e Famiglie, il Piano Colao, La Repubblica, Piano Colao, Gelo di Conte, anche di questo vi darò conto tra poco, nel pezzo di Tommaso Ciriaco. Corriere della Sera, il PD a Conte, ora una svolta, quindi si legge più l'aspetto politico da questo lato. Avvenire si concentra sulla scuola, scuola sotto esame, fine lezioni con sciopero, mancano i presidenti per la maturità, l'incognita sulla ripresa a settembre. Il Fatto Quotidiano è libero sulla Regione Lombardia e sull'inchiesta che a questo punto ieri è aperta senza indagati, è aperto un fascicolo in realtà. Camici miei, gioco di parole del Fatto Quotidiano, indagano due procure, l'inchiesta a Milano sulla commessa da 513.000 euro alla ditta di moglie e cognato di Fontana e a Como su altre irregolarità. È libero, tutti odiano la Lombardia, nessuno odia il Mezzogiorno. Con un pezzo di Lorenzo Mottola che si intitola Giù le mani sporche da Fontana. Il Sole 24 Ore apre sul BTP legato al PIL che punta sulla ripresa, il titolo 8-10 anni, cedole crescenti e premio finale collegato alla ripresa, è il BTP Futura, così si chiama. E c'è un titolo anche per le imprese in rivolta, da Tridico, parole offensive sulla cassa integrazione. Ci arriviamo tra un attimo, così come appunto... su questo c'è anche un editoriale del direttore Fabio Tamburini, ve ne daremo conto. La Verità, il piano italiano per il MES, scritto dal MES. C'è anche un dirigente del Fondo Salva Stati tra gli estensori del documento che stabilisce come dovremo usare quei soldi. Il Manifesto, fase 3, tanti piani in ordine sparso, e poi l'apertura invece sull'estate in campagna. Quale campagna? La campagna elettorale, perché si vota il 20 e il 21. Iniziamo da qualcosa di diverso e iniziamo da... guarda, quando ho letto questo pezzo aperto, pagina 9 del Quotidiano Nazionale, oggi ho pensato per l'ennesima volta che paese incredibile questo nel quale vivere. Il popolo Novax divide anche i giudici. Stesso caso, ma le sentenze sono opposte. La storia arriva da Pesaro e la racconta Elisabetta Rossi. I Novax dividono anche i giudici. Casi identici, decisioni opposte. Succede nel Tribunale di Pesaro, città che nel 2017 aveva ospitato la grande manifestazione del popolo in t-shirt arancione a favore della libertà vaccinale. Ebbene, qui due GIP, vicini di stanza, ma non di pensiero, hanno l'uno prosciolto e l'altro condannato genitori disobbedienti, che per la procura sono tutti pari merito colpevoli di aver portato i figli non vaccinati all'asilo, nonostante il divieto espresso dai presidi. 50 i fascicoli arrivati sulla scrivania dei due giudici. I 30 imputati giudicati dal GIP Giacomo Gasparini sono stati prosciolti. Destino opposto e avverso invece per gli altri 20, per i quali il GIP Francesco Messina ha emesso il decreto penale di condanna. Pagamento della sanzione di 100 euro. Due verdetti che hanno colto di sorpresa la stessa Cristina Tedeschini, procuratore capo, e Maria Letizia Fucci, il sostituto procuratore che per mesi ha spulciato centinaia di carte e cercato di mettere ordine nell'intricato rovo di norme sull'obbligatorietà vaccinale. Sorprese ovviamente per la decisione di Gasparini, ma non impreparate. Tedeschini e Fucci hanno già impugnato i proscioglimenti davanti alla Corte di Cassazione, 20 di 30, dato che su 10 il giudicato è ormai diventato definitivo. Quindi attenzione, questo gruppo potrebbe essere scisso, anzi è stato già scisso ulteriormente in 3. Quindi riassumiamo. 20 sono stati già condannati, per 20 c'è il ricorso alla Corte di Cassazione, per 10 invece la sentenza è passata in giudicato e quindi sono stati prosciolti. I fascicoli erano 130, 80 sono stati archiviati. Ditemi un po' se così si può ragionare. Forse, insomma, ci sarà qualcosa da rivedere. Tutto frutto ovviamente di complicazioni nelle normative e anche nelle normative sull'obbligo vaccinale. Ebbene, sulle complicazioni normative, ma quelle che hanno a che fare con i provvedimenti recenti, si soffermano un po' di giornali e direi che il primo sul quale andiamo è il Sole 24 Ore. Siamo a pagina 8 E c'è un doppio pezzo di Marco Rogari. Il primo è dedicato al decreto rilancio, il secondo è un colloquio con Sabino Cassese. Allora, il pezzo dice già quasi tutto dalla cifra che troviamo nel titolo, e però all'interno ci sono delle chicche. Decreto rilancio record, i commi sono oltre 1000. Quasi un terzo dei 266 articoli è vincolato a 103 provvedimenti attuativi. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci vogliono 103 provvedimenti attuativi per far sì che le norme previste nel decreto rilancio siano operative. In 10.912 parole, cioè facciamo 111.000 per comodità radiofonica, 111.000 parole, abrogate norme di decreti legge in vigore e non chiare attribuzioni di deleghe, scrive Marco Rogari, insinuandosi nei 1051 commi del maxi decreto si può trovare di tutto: abrogazioni di norme di decreti legge del filone Covid ancora in vigore, anomale forme di intreccio con le disposizioni di altri provvedimenti urgenti all'esame del Parlamento e quindi senza il sigillo delle Camere, la mancanza della certezza dei tempi per molti provvedimenti evocati e soprattutto il frequente, se non quasi sistematico, collegamento vincolante a ulteriori testi attuativi. Sono appunto in tutto 103. A questa interminabile coda si aggiungono 18 forme di coinvolgimento sotto forma di interesse, pareri e accordi del sistema delle conferenze, Stato-Regioni, Stato-Città, conferenza unificata, 5 pareri del garante della privacy, altri 2 della conferenza nazionale dei rettori, ma vincoli e adempimenti non si esauriscono qui. In 12 casi è prevista l'autorizzazione o la dichiarazione di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato della Commissione europea e la valutazione di molti esperti, così come quella del Comitato per la legislazione. Suona come una sentenza, oltre che per le dimensioni. Il decreto appare anomalo anche perché l'intera massa di tutti i decreti legge convertiti precedentemente allo scoppio dell'epidemia prevedeva complessivamente, secondo i dati aggiornati al 7 febbraio, non più di 299 provvedimenti attuativi. Una congerie di numeri che vi fa capire sostanzialmente le difficoltà a mettere in atto questo decreto rilancio che, non a caso, Sabino Cassese, in questo colloquio sempre con Marco Rogari, insigne giurista, giudice emerito della Corte Costituzionale, uno dei più grandi amministrativisti italiani, dice: il decreto rilancio è stato scritto da persone che non conoscevano il diritto, la logica e il buon senso. E su questo tema, sul tema di come sono scritte le norme, beh, c'è anche questo pezzo di Francesco Giavazzi, che inizia sulla prima pagina del Corriere della Sera e poi prosegue all'interno, il quale entra nel dettaglio di come ha funzionato il decreto liquidità, l'altro, quello che doveva far arrivare i quattrini nelle tasche delle imprese tramite i prestiti agevolati, quelli garantiti dallo Stato e via dicendo. E inizia con un aneddoto. Carlo Azeglio Ciampi, premier tra il 93 e il 94, poi presidente della Repubblica, aveva un tratto affabile, gentile, uno sguardo limpido di rara mitezza, ma fermo, che denotava una persona d'acciaio, necessaria in un paese che fa tanta fatica a portare fino in fondo le riforme, che approva decine di leggi, ma poi si scorda di scriverne i decreti attuativi, lasciandole quindi lettera morta. E quindi cosa faceva Carlo Azeglio Ciampi? Controllava obiettivi e risultati del suo governo usando uno strumento semplice: un grande foglio a quadretti sul quale tracciava lungo le colonne le settimane dell'anno e lungo le righe i nomi dei suoi collaboratori. In ciascuna casella inseriva un obiettivo condiviso con la persona che ne era responsabile, funzionari dello Stato ma anche ministri del suo governo. A scadenze regolari li convocava e si informava sui risultati raggiunti. Tutto questo per rendere trasparente l'operazione di governo. E allora qua Giavazzi inizia nel racconto di come sono state costruite queste norme sulla liquidità, varate l'8 aprile, come sapete, in pompa magna, con alcune carenze, non c'era la manleva per i direttori di filiale che devono erogare quei prestiti e quindi non chiariva quali fossero i rischi che si corrono. L'ABI lo dovette chiarire, poi il 2 l'ha dovuto chiarire il 2 maggio e quindi un mese dopo il varo del decreto, e il 18 maggio, 6 settimane dopo l'approvazione del decreto, in Emilia Romagna, una regione nella quale le aziende e le cui banche non sono certo fra le più inefficienti del paese, su un campione di 2700 imprese analizzato da Confartigianato, l'80% aveva chiesto il prestito, ma solo il 12% lo aveva ottenuto. È il tema di come vengono scritte le norme. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Tranquilli che Salvini a governare ora come ora autunno non ci vuole andare, non ci pensa neppure. Ma ve lo immaginate se volesse andare a governare in autunno, inverno, un possibile ritorno del coronavirus? Ma non ci pensa proprio. La legge elettorale va modificata semplicemente perché ci sarà il taglio dei parlamentari e per quello che sono obbligati a farla in questo momento. La Meloni, come al solito, non si smentisce mai. 48 milioni di euro nella regione Lazio spesi per mascherine, mascherine mai arrivate. Nessuno sta indagando. Lì 500.000 euro di camici, forse regalati, forse non so cosa, e si sono mosse due magistrature. Allora, eccoci qua. Adesso vado a verificare perché, francamente, non è che ho sotto mano tutto, però se non sbaglio un'inchiesta è aperta anche sulla vicenda delle mascherine mai arrivate alla regione Lazio. Detto ciò, se volete leggere qualcosa su questo tema dei camici, che il Fatto Quotidiano con una battuta chiama camici miei, un gioco di parole, sono due giornali da guardare, il Fatto Quotidiano da una parte e Libero dall'altra. Il Fatto Quotidiano che ricostruisce quello che è stato tirato fuori da un servizio di Report e che ha a che fare con l'azienda della quale amministratore delegato il cognato di Attilio Fontana, del presidente della regione Lombardia e della quale azionista con il 10% la moglie di Attilio Fontana. Cosa si sostiene in questo servizio? Si sostiene che questa azienda, che in realtà è un'azienda che fattura 160 milioni di euro ed è tra l'altro la distributrice del marchio Pollen Shark, avrebbe ricevuto una commessa da mezzo milione di euro, da 500.000 euro per dei camici. L'azienda cosa dice? L'azienda dice che in realtà era una donazione e che le fatture sono state fatte pro forma e poi stornate. Report replica: avete stornato le fatture quando noi abbiamo iniziato a fare domande. L'azienda controreplica: no, avete iniziato a fare domande all'inizio di giugno, lo storno delle fatture è del 20 di maggio. Così abbiamo riassunto la vicenda, le due parti. Adesso ci sono delle indagini della procura aperte su questo, vedremo che cosa emergerà e che verità troveranno i magistrati. Siamo alla parte politica, scrive un ascoltatore: volsi così Colao e più non dimandare. Non è male usare Dante per raccontare questa fase politica. Dunque, il tema al centro della scena è sicuramente il piano Colao e la vicenda degli stati generali dell'economia voluti dal presidente del Consiglio Conte. Iniziamo dalla Stampa, va pagina 3 con Massimo Giannini che intervista Vittorio Colao, appunto un colloquio con Vittorio Colao, non è proprio un'intervista, quasi una chiacchierata, non sappiamo esattamente. Una chiacchierata nella quale Colao si dice molto soddisfatto, dice: abbiamo fatto un ottimo lavoro, 46 pagine di sintesi, più 102 idee per il rilancio di un'Italia colpita da una crisi senza precedenti, è il massimo sforzo possibile, un piano di modernizzazione a tutto campo e di rimozione delle arretratezze del paese. Anche Conte, aggiunge, è molto contento. Cosa c'è in questo piano? Semplificazione delle procedure, digitalizzazione della pubblica amministrazione, anche dei provvedimenti, delle idee di provvedimento divisive, come l'allentamento dei vincoli del decreto dignità per il rinnovo dei contratti a tempo determinato, il rinvio dei pagamenti delle imposte, la rinegoziazione obbligatoria dei contratti di locazione, la riqualificazione dei disoccupati, la riduzione del cuneo fiscale per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori con percorsi formativi. Insomma, c'è oggettivamente parecchia roba, però soffermiamoci un attimo sulla frase «Anche Conte è molto contento», perché se andiamo sul quotidiano La Repubblica, pagina 3, è che Repubblica che apre con Piano Colao il gelo di Conte, dove troviamo il pezzo di Tommaso Ciriaco che è un retroscena, però è uno dei tanti retroscena su questa storia di Conte e Colao, di Conte che non avrebbe mai apprezzato il lavoro di Colao. E insomma, le voci iniziano a essere parecchie e consistenti. Il manager senza invito e l'addio di Conte ai tecnici. Ora tocca alla politica. Qual è il punto? Il punto è che Colao potrebbe non essere nemmeno invitato a questi stati generali dell'economia, così sostiene Ciriaco sulla Repubblica. Questo per dar la misura di quanto ci sia una certa distanza tra il Presidente del Consiglio e il capo di questa task force. Il gelo di Giuseppe Conte sul piano Colao fa contatto con il caldo umido che avvolge Palazzo Chigi, eppure a due giorni dagli stati generali il Premier decide di ignorare ancora esplicitamente il progetto della task force. Peggio, alle 21 di lunedì sera l'invito all'ex amministratore delegato di Vodafone non è ancora partito e non è detto che partirà, così fanno sapere, mentre l'agenda per il rilancio finisce in pasto ai media senza un passaggio formale né una stretta di mano pubblica, senza una parola del Presidente del Consiglio o quella conferenza stampa congiunta promessa per un giorno intero in via informale. E mai organizzata, l'amarezza di Colao si nutre dei segnali espliciti che arrivano da Palazzo Chigi. E però non è così facile per Giuseppe Conte ignorare il lavoro della task force di Colao, scrive La Verità a pagina 5, perché quello che scrive Carlo Tarallo è che Mattarella ci si è speso in prima persona perché Colao arrivasse alla guida di questa task force e dunque si trova un po' stretto il Presidente del Consiglio, almeno stando alla ricostruzione della Verità. Il piano Colao si abbatte come una slavina sulla maggioranza di governo, scrive. Il rapporto finale della task force infatti è destinato ad acuire le tensioni tra PD, Italia Viva, 5 Stelle e Leo. Il piano elaborato dal suo team è un agglomerato di proposte che innescheranno, è facilmente prevedibile, una marea di polemiche tra i partiti della coalizione che sostiene Giuseppe Conte, il quale è in un vicolo cieco. Se va a derubricare il lavoro della task force a contributo di riflessione, va incontro all'ira funesta del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che si è speso in prima persona affinché il super manager accettasse l'incarico. Se invece si convince a utilizzare il piano elaborato da Vittorio Colao e dai suoi esperti come canovaccio per le politiche dei prossimi mesi, innanzitutto finisce per offuscare completamente la sua stessa immagine di Presidente del Consiglio, facendosi di fatto commissariare e diventando il mero esecutore delle direttive della task force. In secondo luogo va incontro ineluttabilmente a settimane di gravi tensioni all'interno della sua coalizione già fragilissima e divisa praticamente su tutto. Questa la lettura che ne dà La Verità. Per rimanere alla politica andiamo anche sul Sole 24 Ore, il braccio di ferro sugli stati generali, così lo definisce Emilia Patta nella sua cronaca da Roma, nella quale racconta appunto che qua ad alzare la posta è un po' il Partito Democratico, no? Una riunione notturna tra il Premier, il Ministro Dem dell'Economia e i capi delle per fare il punto sugli stati generali annunciati da Conte la scorsa settimana e subito messi sotto accusa da tutti i ministri del PD e non solo per la mancata condivisione con gli alleati e per la vaghezza di un progetto che aspira ad essere la base per la ricostruzione del paese. Come vedete, questo è l'attacco al pezzo di Emilia Patta, che però ci dà un po' la misura, insomma, di come le cose siano tutt'altro che risolte. Traffico. Mattino. Buongiorno, io ho un bambino di 3 anni e le linee guida della regione, abito in Veneto, le linee guida della regione Veneto sono impraticabili, non si possono tenere bambini di 3 anni in gruppi da 5 transennati. ogni 2 ore misurazione della febbre, guanti, mascherine, merende sottovuoto. Buongiorno, sono la titolare di un asilo nido privato di Vicenza, l'asilo nido Bio Papamondo, e vorrei portare la mia testimonianza perché noi abbiamo aperto ieri seguendo le linee di guida della regione, che sono fattibilissime. L'apertura si può fare. Si può fare, come direbbe la nostra Laura Bettini, eh? Si può fare. Allora, cosa ancora? Innanzitutto queste parole del presidente dell'INPS Pasquale Tridico nell'intervista di ieri al quotidiano La Repubblica, le cronache e i commenti, insomma, li trovate sul Sole 24 Ore di oggi. La cronaca innanzitutto è Nicoletta Picchio che parte con le parole del presidente di Confindustria: scioccanti per il mondo produttivo. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha definito le parole del presidente dell'INPS Pasquale Tridico, dette in un'intervista ieri sulle aziende che non riaprono perché lo Stato copre l'80% della busta paga e per pigrizia imprenditoriale. Queste le parole di Tridico. Il mondo imprenditoriale reagisce duramente, le parole dei vari rappresentanti del mondo industriale, Carlo Robiglio della piccola industria, parole ingiuste e generose nei confronti del sistema produttivo, Fabio Ravanelli di Confindustria Piemonte: anziché insinuare la malafede delle imprese, Tridico dovrebbe tenere fede agli impegni presi, già perché c'è 1,5 milioni di persone che ancora non ha ricevuto la cassa integrazione. Alberto Dal Poz di Federmeccanica: continuano ad emergere pregiudizi anti-imprese. Poi l'editoriale del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, dice: l'opinione che in momenti così difficili lo scontro frontale tra Confindustria e governo non sia la strada migliore da seguire è convinzione largamente diffusa in entrambi i fronti. D'altra parte la gravità della crisi è tale che nel mondo delle imprese la difficoltà drammatica di tenere testa all'emergenza economica seguita all'emergenza sanitaria va a sommarsi con l'insoddisfazione di chi tocca con mano ogni giorno sia la differenza tra le promesse e i fatti. E qua torniamo un po' a quello che ci raccontavamo prima, no? Sul decreto dignità e sul decreto liquidità e sul decreto rilancio, sia la resistenza di un paese che sembra non avere alcuna intenzione di cambiare, nel quale la burocrazia soffoca sul nascere anche le intenzioni migliori. In proposito, la pancia degli imprenditori al nord come nel resto del paese sta mandando messaggi chiari di insofferenza e chi li rappresenta, cioè Confindustria, non può non tenerne conto. Per questo nei giorni scorsi Carlo Bonomi, il nuovo presidente di Confindustria, editore di questo giornale, ha alzato i toni delle dichiarazioni, ritenendo che sia arrivato il momento di parlare con chiarezza e senza reticenze. La situazione lo richiede anche perché la posta in gioco è il rilancio del paese, che messo alle corde dalla pandemia sta aggravando limiti ben conosciuti, a partire da un debito pubblico largamente fuori controllo, il che non significa una scelta di contrapposizione preconcetta con il governo. E infatti, perfino nelle dichiarazioni più crude, Bonomi ha messo in croce la politica e non l'esecutivo. Tanto che proprio sul fronte molto delicato, le responsabilità dei datori di lavoro nel caso di malattia per Covid-19 dei dipendenti, l'impegno personale da parte del Presidente del Consiglio Conte ha permesso di superare lo scontro seguito alle posizioni prese dall'INAIL, arrivando a soluzioni considerate adeguate dagli imprenditori. Impegno di Conte che è stato apprezzato, la speranza era che potesse essere una prova di dialogo, ecco perché le dichiarazioni a Repubblica del Presidente dell'INPS Pasquale Tridico hanno avuto l'effetto di un terremoto. Insomma, parole delle quali vi abbiamo riferito. Non è chiaro perché Tridico abbia voluto incendiare la prateria e se lo abbia fatto per scelta consapevole oppure pronunciando parole in libertà. Di sicuro è riuscito ad accendere gli animi e la sua sortita è stata presa come l'ultima conferma di quello spirito anti-industriale che secondo ampi settori dell'imprenditoria rappresenta il male oscuro del paese e di buona parte della politica che lo dirige. È un peccato, aggiunge Tamburini, che l'intervista a Tridico sia arrivata proprio nel momento in cui il dialogo poteva concretizzarsi, perché il paese appunto ne ha bisogno, questa la sostanza. Trovate sulle pagine dei giornali molti elementi sulla scuola, l'hanno chiuso con un click ed è a questo è dedicata l'apertura del quotidiano Avvenire, con l'archiviazione per la didattica a distanza, in alcune città organizzate iniziative nei parchi e nelle piazze, il flop dello sciopero convocato dai sindacati, ma una strategia per il ritorno a settembre, scrive Avvenire nel pezzo di Paolo Ferrario, ancora non c'è. Nella pagina, che è pagina 4, si racconta anche della retromarcia della ministra Azzolina sul plexiglass, ve ne abbiamo fatto sentire la voce poco fa. Vi segnalo che lo stesso Sole 24 Ore dedica due pagine, cioè o meglio dedica due commenti a pagina 24 esattamente a questo: le troppe incognite che pesano sull'anno scolastico in arrivo, è il pezzo firmato da Andrea Gavosto, il direttore della Fondazione Agnelli. E un pezzo di Andrea Capussela, che è visiting fellow alla London School of Economics, autore del libro Declino, una storia italiana, il cui pezzo si intitola La scuola è una priorità ovunque, non qui, e porta l'esempio francese, ma soprattutto dice Capussela, e questo mi sembra lo snodo fondamentale, che ci vuole chiarezza sui criteri con i quali si è deciso appunto di tener chiusa la scuola. Vi voglio portare in chiusura su altri due spunti che insomma non sono male. Allora, aperto un tema di discussione sicuramente il ministro del Sud Provenzano. Perché? Perché ha deciso di non partecipare ad un convegno perché il panel era composto solamente da uomini. E ha detto: a convegni così io non ci partecipo più. Grande discussione anche sui social su questo tema. Che il pezzo Annalisa Cuzzocrea firma un'intervista con Peppe Provenzano, il quale dice: Caterina ha due anni, un padre, Peppe Provenzano, che legge tutte le sere storie della buonanotte delle bambine ribelli. Sarà per quelle favole notturne o per i racconti delle donne forti della sua Sicilia che il ministro del Sud appunto ha deciso di non partecipare a questo evento sulla ripartenza. È stato un gesto quasi istintivo. Gli invitati erano 14, tutti maschi, ho provato a disagio. Tante volte mi accorgo dello squilibrio. Stavolta era una vera e propria rimozione. E a proposito di donne, voglio rimaniamo un attimo sul quotidiano La Repubblica, perché Emanuela Audisio, a pagina 3 dello Sport, ci porta su... Ve le ricordate quelle ragazze meravigliose, quelle che abbiamo visto in TV, nei mondiali, quelle per le quali abbiamo sognato, insomma le ragazze del calcio? Ebbene, loro non ripartono. Riparte il calcio maschile, ma non si sa perché il calcio femminile non può ripartire. Ricordate gli applausi alla virologa Ilaria Capua, scrive Emanuela Audisio, quando mesi fa diceva che le donne in Italia potevano essere la base per una ripartenza e che andavano sostenute e utilizzate. Ricordate appena un anno fa l'Italia del calcio femminile che esordiva ai mondiali con un successo sulla favorita Australia e le promesse di amore e di attenzione alla nazionale dilettante della CT Milena Bertolini? Quelli che contano ci avevano detto: nulla sarà come prima per il pallone delle donne. Ci avete creduto? No? E avete fatto bene. Tutto cancellato. Si chiude, le donne restano a casa, il loro campionato non riprende. Eppure bastava poco. Solo 6 partite da giocare. C'era un interesse mediatico, c'era una TV Sky pronta a riprendere lo spettacolo. Il campionato femminile è il primo deciso dall'algoritmo. Prima la Juve, che si riconferma, ma senza scudetto. Fiorentina seconda davanti al Milan e qualificata alla prossima Champions. Orobica e Tavagnacco retrocesse in Serie B, Napoli invece promosso in Serie A. Si dirà: ma anche in Francia il calcio ha chiuso per entrambi i sessi, vero, ma la sua Federcalcio ha stanziato 10 milioni di euro per le donne. La Germania ha deciso di dare 700.000 euro a squadra per le società solo femminili e 300.000 per quelle che hanno anche la maschile. Questo per darvi l'idea di quello che succede anche in altri paesi. GR24, ci ritroviamo tra poco.